subito, si cominciò subito bene. La denuncia di benvenuto, bravo. Sì, la denuncia di benvenuto, va bene. Comunque, sì, in effetti andavamo a Pordenone addirittura in treno a prendere questa antenna che era 12 metri complessiva, aveva elementi da 3 metri, quindi portare un pacco di 4 pezzi di 3 metri di alluminio in... insomma, era tanta roba. Occupavate una carrozza. Praticamente sì, insomma. E allora, sì, ci voleva altri mezzi, io usai, ricordo... quello che doveva essere il regalo per me di una promozione scolastica fu mia nonna che mi diede l'equivalente, non so come fece, ma io chiesi quello, l'equivalente di 700.000 lire, che allora ci si poteva comprare una moto da cross. A Montevarchi andava molto il cross. Io non sono mai stato un appassionato di motori e con queste 700.000 lire da allora, insomma, nel 77 era un po' di robina e ci feci. Poi quella era la mia quota, poi c'erano le altre tre quote, quindi... Però chiaramente non esistevano telefoni cellulari come ora per collegarsi, per fare interviste, figuriamoci. Abbiamo fatto addirittura Radio Cronache, io per ricordarne ne ricordavamo una con Giustino Ponci l'altro giorno da Savigliano, in cui lui guardava la partita, cioè io guardavo la partita dalla rete e lui dal bar, che non si vedeva, gli riportavo le cose dal bar con il telefono, raccontava la partita. Cioè cose... Tipo il telefono senza fili, praticamente. Sì, veramente. E tornando appunto ai momenti in cui calcavi i campi di calcio con la maglia rossoblù, alcuni dei tuoi ex compagni, alcuni che hai anche citato, già sono venuti a trovarci e ci hanno raccontato di un tuo gol che fu decisivo per proseguire il percorso in quella famosa stagione in cui Montevarchi vinse sia la Coppa Italia Dilettanti che il campionato. Raccontaci di questo gol particolare, visto che appunto oggi sei davanti a noi, chi meglio di te può raccontarci come andò e cosa successe? Avevamo pareggiato il primo turno in casa 0-0 con il Poggi Bonsi, al ritorno andammo al campo di Poggi Bonsi, al lotti di Poggi Bonsi, e loro segnarono una rete dell'1-0, noi non ci saremmo qualificati, se non che sul lancio di Giuliano Nicolai ebbi la prontezza di scartare il mio uomo, di arrivare davanti alla porta agli ultimi, mi sembra, 3-4 minuti e realizzare l'1-1, e ci permise quella rete di passare il turno, e da lì poi, come sapete, arrivavo in fondo la Coppa Italia. Però devo anche dirvi che nello spareggio, cioè nella partita di Coppa, rigori, sbagliai rigore. Quindi forse molti si ricordano dell'errore del rigore, ma di questa prima giornata molti meno. Quindi vi ringrazio per questo, perché quello per tanti miei compagni, meno male che poi la vincemmo, per tanti miei compagni di Montevarchi me l'hanno ripetuto per anni: tizi, se si perdeva ti si veniva a prendere a casa. Quindi per me fu un po' una delusione, però grazie a Giacinti, che fra l'altro è stato un altro di quelli che ha calcato campi importanti, grazie a Romeo Giacinti parò tre rigori e non importò il mio errore dal dischetto. Però insomma, ecco, come Montevarchino lì un po' presi il palo, un po' mi dispiacque del fatto. Quella comunque fu una stagione storia e ancora oggi è molto ricordata come una delle stagioni più grandi di sempre, diciamo, nella storia dell'Aquila. Se tu potessi farci una fotografia, un ricordo dei festeggiamenti, di quello che fu, soprattutto dopo la vittoria della Coppa, perché presumo, o forse mi sbaglio, che la Coppa l'avete vinta dopo il campionato. Sì, preciso. Esatto, cioè al momento in cui giunta al completamento della cosa, cioè la doppia vittoria, cosa ricordi? Com'è che reagì la città? Come reagirono i tifosi? Perché comunque noi facciamo un'indagine di quella che definiamo la montevarchinità e quindi ci interessa anche molto le sensazioni di percezione, in questo caso tua, rispetto a come era sentita la squadra dalla città. Noi, per motivi di età, ovviamente abbiamo in testa magari l'esodo di Lugo di Romagna e i festeggiamenti dopo Lugo di Romagna. Ecco, te che l'hai vissuti tutti e due, uno da protagonista in campo e uno da tifoso, ci sono state delle differenze riguardo a questi festeggiamenti o la montevarchinità si è sempre espressa nella stessa maniera? Bellissimo. Devo ricordare anche anche Empoli, che è stato un altro di quelle cose indimenticabili. No, i montevarchini fantastici. il ricordo è che avevamo festeggiato il campionato e ci apprestavamo a giocarci una finale di Coppa Italia, e noi nello spogliatoio, stretti anche fra persone del calibro, come dicevo, di Beatrice, di Taddei, di Nicolai, lo stesso Giorgio Garozzo, che quell'anno fece, ma non mi ricordo fra Coppa e Campionato, i gol che fece, veramente fu straordinario, dallo stesso Vinicio, Brilli, insomma una squadra veramente importante di uomini veri, di ragazzi in gambissima, e ci dicemmo fra di noi potrebbe diventare un anno storico, cerchiamo di arrivarci nel meglio modo possibile. E fu così perché ci presentammo con la testa giusta. Non è facile, sai, quando hai vinto un campionato, stressato fino in fondo, con il Poggi Bonzi c'era l'ultimo passato avanti, poi lo ripassammo noi fino all'ultimo, fu molto tosta. Ricaricare la testa e le energie non era facile, però mettemmo tutto a disposizione in quel periodo veramente per arrivarci nel meglio modo possibile, e dico la verità, con pieno merito, perché poi fu giocata in un campo molto brutto, quello di Suzzara, un campo veramente che non si addiceva alle nostre qualità, piccolo e molto di un'erba, non un bel manto erboso, quindi erano le due cose. Noi ci serviva un campo grande e possibilmente anche, come era il Berilli-Peri, con un buon terreno, non dico ottimo, quantomeno buono, quindi andavano a discapito delle nostre qualità. Però, come vi dicevo poco fa, ricaricati anche da questa nostra decisione di poter entrare nella storia di questa grande e gloriosa società che poteva diventare un anno fantastico, così fu. I festeggiamenti furono incredibili. Io ho il ricordo, le foto nel centenario, ce l'ho nel libro, di tanti amici che ero stato, ero un ragazzino, quindi che avevo fatto le giovanili insieme, ragazzi che vivevano nel mio stesso palazzo, mi sembrava una... Non ho dormito per una settimana, e poi avevo l'aereo che mi portava in Messico con altri amici, perché dissi, se poi si vince con i soldi che poi prendevamo, mi volevo regalare questo viaggio, e quindi ho ridormito in Messico. Mentre invece, se ci dovessi raccontare una partita che hai vissuto dagli spalti e ti è rimasta in mente, o per il risultato, o per il tifo, o per un qualsiasi tipo di aneddoto che può essere capitato prima e dopo. Una delle partite chiaramente ricordo con più è la partita con il San Donà, prima dello spareggio, prima della partita a spareggio a Lugo di Romagna. Un'altra partita che ricordo, che per me la curva e la domenica lì fu impressionante, era in C1 Montevarchi Spal, credo, se non mi sbaglio, fu la domenica era Morti e Farolfi, però quella volta lì la curva era un muro di compattezza, era impressionante, c'ho ancora le foto, si può testimoniare. Se non mi sbaglio si era fatta una coreografia onde un po' mezza curva rossa e mezza curva blu, e poi chiaro il derby all'Arezzo, sia in casa che in trasferta. E anche la prima volta che è apparso il bandierone, se non mi sbaglio era contro il Ravenna in C1, il bandierone all'inizio era solo rosso-blu e poi fu tagliato nel mezzo e ci fu messo lo stemma di Montevarchi sullo sfondo giallo. Credo ci sia ancora da qualche parte il bandierone, credo. Diciamo, il Montevarchi, seguire il Montevarchi, soprattutto magari negli anni 80 e anche anni 90, portava a vivere situazioni di enorme pathos, di enorme partecipazione, e in effetti è quello che mi sembra di ricordarmi anche proprio sulla mia pelle in alcune delle partite da te citate, proprio il senso di coesione, di essere 3500 come eravamo a Lugo di Romagna, ma di sentirsi una cosa sola. E questo penso che sia un grosso pregio che questa comunità ha rispetto alla passione per i colori rosso-blu, cosa che, come dimostra la tua esperienza, diciamo, mantiene pur essendo andati a vivere un po' distanti ormai da un po' di anni. Tu hai giocato in anni molto particolari, fra gli anni 50 e gli anni 60, quindi hai giocato anche alcuni derby contro il San Giovanni. Bene, noi che abbiamo vissuto i derby in età molto più recente, raccontaci l'atmosfera di un derby negli anni 50 fra Montevarchi e San Giovanni. Fra Montevarchi e San Giovanni era la fine del mondo, perché io conoscevo gente che aveva da andare a San Giovanni, o passava da Marno o passava di là dalla ferrovia e sbucava a Figline, perché loro c'è dei personaggi senza fare nomi, sicché era una guerra, ci si vestiva a Montevarchi, perché a San Giovanni nella Fossa di Rame avevano un campo da fa schifo, e allora non ci si vestiva qui e si andava vestiti là, finiva la partita, via a casa, ma era una guerra, era uno spettacolo, veramente, guarda, te lo dico, chi non ha fatto un derby a San Giovanni non ha fatto nulla. Era venuto anche contro i Poggi Bonzi, contro Arezzo, ma con la San Giovannese. E di fatti quando entro nel campo sportivo di Montevarchi e mi brucia sempre i piedi, ancora, non è che ti racconto le novelle. Se la struttura principale di Montevarchi, che ospita il calcio, fosse migliorata e fosse resa ancora più accessibile, per voi sarebbe un ulteriore salto di qualità, come lo sarebbe anche per il calcio maschile, permettendovi poi magari di convivere proprio a tutto tondo nelle stesse strutture. Lo vedete possibile questo? Ve lo auspicate oppure sono solo sogni? No, sono, diciamo che cominciamo a sentire delle realtà, perché diciamo il progetto antistadio speriamo che vivamente prenda la sua collocazione, e da qui avremo non solo per il femminile, non solo per la prima squadra, ma su tutto il settore giovanile avremo un salto di qualità notevole, perché già abbiamo una struttura dietro bella e solida, fatta, mi permetto, di persone veramente, veramente professionali, che danno l'anima per il Montevarchi, sentono tutti allo stesso livello la pesantezza della società. Voi pensate il dottore che usufruiscono le ragazze è il dottore della prima squadra, il massaggiatore è il massaggiatore della prima squadra, Fabrizio Cingottini, che viene da due campionati con il Siena con Antonio Conte. Insomma, non sono cose da poco avere una struttura che penso che con noi, se riusciamo, se la società riesce a fare questo centro sportivo, allora cambierà tante cose. Nel tuo caso, quando è nata la scintilla di amore per il Montevarchi Calcio e quindi per Montevarchi città? Ma io penso di poter ricondurre l'inizio di questa passione a quando ero bambino. I miei primi ricordi del calcio montevarchino sono quelli della stagione 87-88, che avevo 10 anni. Una grande stagione in C1 per il Montevarchi. In C2. In C1 88-89? Sì, in C1 88-89, 87-88 in C2 è stata la stagione della promozione, dello spareggio a Empoli e compagnia. I miei primi ricordi sono quelli. Come è nata? Penso di poter dire che la scintilla è stato un parente, un cugino che poco più grande di me seguiva il Montevarchi e poi non l'ha seguito più, però in quel periodo lì lo seguiva e mi ha contagiato in questo, e a me sta malattia non mi è andata via, fondamentalmente, ecco, mi è proseguita, e si può dire quasi che non è che ho scelto il Montevarchi, è il Montevarchi che ha scelto me, perché poi alla fine nella vita uno può fare tante esperienze, ne può iniziare mille, ci può essere l'esperienza che dura un giorno, ci può essere quella che dura un mese, a me mi dura tutta la vita e mi continua ancora, quindi ecco, si è alimentata nel tempo e si alimenta tuttora, per quanto poi la vita possa cambiare da altre cose, comunque insomma è una presenza costante. E Amerigo, considerando quell'epoca, considerando che comunque fare lo sportivo professionista, malgrado tutto, era un livello superiore rispetto a tanti mestieri che comunque non davano una garanzia di vita agiata, o quantomeno erano piuttosto complessi da fare, in un certo senso, da sobbarcarsi. Qual è stato il motivo per cui hai deciso di abbandonare la carriera professionistica? Cos'è che ti ha dato fastidio nel professionismo? Beh, io, siccome io sono stato sempre una persona leale, e lì la lealtà là non c'era, era tutto un nascondere una cosa, sono rimasto così, non so nemmeno spiegare, così male che ho detto no, basta, perché questo non è un ambiente per me, perché io ero troppo genuino, dicendolo proprio francamente, io pensavo che tutte le altre persone fossero, invece no, chi era ruffiano, chi era, c'era un po' di tutto. E allora sto meglio a casa mia senza rompermi l'anima. Io ci rimo, perché poi dopo dice anche quello di guadagno. Era la passione, più che pensare a guadagnare, era la passione, se no chi ce lo faceva a fare? Fa quella vita per tre lire, perché ci aveva una passione immensa. Perlomeno io avevo una passione, come ce l'ho ancora, come ce l'ho sempre avuta. Escluso i 5 anni che ho detto prima e sono stato senza nemmeno vedere un ordine d'arrivo, fra l'altro era lavorare via da casa. Poi quando sono rientrato ho ripreso la bicicletta, ho fatto il ciclamatore. Io vi racconto una cosa, la passione come lei. Io lavoravo a Firenze, va bene? Mi ricordo l'Enagiro, il Giro d'Italia dei ciclamatori. Partiva da Spoleto. Allora io il giorno prima della partenza era a lavorare a Firenze. Ho preso le ferie, sono andato a Spoleto la sera prima della partenza. Ora chi me lo faceva fare se non c'aveva una passione in quella maniera? È quella, la passione è rimasta, quella lì ormai ce l'ho qui nella testa e sarà sbagliato, sarà perché anche là fare il ciclamatore, a parte il fatto che io mi divertivo, perché prima cosa fatica da ciclamatore non fatta poco, anche perché io ero in una categoria che andava a categorie, che in confronto a non per cosa, in confronto a tanti della mia categoria io potevo fare, infatti vinci alcun altro quando lo lasciano andare in quel periodo lì. E poi anche lì a un certo punto dissi io fino a 50 anni lo fa, a 50 anni smetti, infatti vinci il campionato a 50 anni, ta. Però la passione la c'è sempre, la giratina in bicicletta la fa ancora, sulla mia bicicletta a corsa ancora. E quando parli di giratina, mediamente quanti chilometri intendi? Una quarantina, 45, sì, tutta pianura però. La salita l'ho abolita ora, quando vedo una salita fu marcia indietro. Ricordiamo ai radioascoltatori che Amerigo ha la bellezza di 89 anni e quindi 40 chilometri glieli concediamo, che siano solo in pianura, insomma, ecco, direi io a malapena riesco ad andare a comprare il pane in bicicletta. Oltretutto, tornando a parlare sempre in relazione a Montevarchi, seppur ci abbia giocato 4 stagioni soli, però la quarta ritorna, la quarta, sì. Cioè il fatto che comunque abbia deciso di tornare a fine carriera ne fa comunque una bandiera da un certo punto di vista, anche se effettivamente non ha praticato così tanto il campo cittadino quanto si pensa possa praticarlo una bandiera media. A questo proposito mi verrebbe da fare una domanda a Massimo, ma comunque anche a voi altri due, perché no? Lasciando da parte Costanzo Balleri, già citato, Livornese come Busoni, come già detto, hai idea di un altro giocatore, a parte questi due, che si possa citare come bandiera moderna di Montevarchi? Perché purtroppo, avendo sempre giocato in categorie attorno alla Serie C, Serie D, è difficile pensare che ci possano essere grandi giocatori che passano la carriera a lungo a Montevarchi, se non i montevarchini, come ad esempio mi viene in mente Vinicio Brilli o anche il Piero Bencini, seppur si sia mosso nell'arco della carriera. Chi altro si potrebbe pensare che possa aver avuto in un periodo storico, a prescindere poi dall'importanza nazionale o dai numeri statistici, l'appeal di Busoni? Io credo che come persona bisogna rifarsi sicuramente a Pieraccioli. Per me la bandiera, anche perché la storia di Pieraccioli è purtroppo nota a tutti. Mi andrebbe riscritta. Quindi diciamo, se devo scegliere una bandiera da un punto di vista umano, da un punto di vista calcistico, perché lui ha fatto anche allenatore, e anche da un punto di vista della permanenza della squadra, che lui è venuto nel 29 e fino a che non è morto, lui è stato un filetto, vai. Se poi ci si rifà un pochettino a tempi, diciamo, un pochettino più moderni, io cito anche uno degli idoli che poi è diventato un cavaliere di effetti, che si chiama Pesini. Voi non l'avete visto giocare, ma noi si è visto, e insomma, ragazzi, era tanta roba, Pesini. Faceva gol da calcio d'angolo, aveva le gambe più di uno, sì, però quando partiva, cioè, lui secondo me poteva fare benissimo la Serie A. Poi in tempi ancora più moderni, ma io Bencini, Brilli, ce ne sono tante dei personaggi, però diciamo che abbiano raggiunto, diciamo, queste vette, questi livelli che anche di popolarità, anche d'affetto nei confronti degli sportivi. Io credo che può darsi anche mi sfugga qualche luna, magari non voglio che me ne voglia, ma io mi fermerei qui, ecco. Io vorrei aggiungere un personaggio che è nato, praticamente cresciuto nel settore giovanile dell'Aquila Montevarchi e che poi, passando alla Fiorentina, ha disputato una finale dell'allora Coppa dei Campioni. E mi piacerebbe ricordare Aldo Scaramucci, detto Pan Bianco, Montevarchino Doc, nato a Montevarchi e l'unico, penso, che abbia disputato una competizione importante come la Coppa, la finale di Coppa dei Campioni contro il grande Real Madrid di Puskas, Genco, Di Stefano e via discorrendo. Ecco, io ho sempre avuto un pallino per Scaramucci, per Pan Bianco, prima di tutto perché magari quando ero ragazzotto me lo ritrovavo magari mi facevo male a farmi gesso all'ospedale, perché poi dopo lui ha intrapreso la carriera ospedaliera. E però mi ha sempre affascinato appunto il fatto di questo bambino e questo ragazzo che da campi del Montevarchi si è ritrovato in uno stadio che a quell'epoca era veramente lo stadio e la squadra più forte al mondo. Ecco. Io chiedo venia, perché lo dovevo dire io, non l'ho detto, però sposo in pieno. Giusto, anch'io. Stefano, anche perché io Scaramucci l'ho visto giocare. E la prima volta che l'ho visto giocare a San Giovanni, ero bambino, mi portarono al vecchio Campo Galli. E in Montevarchi inizia la partita per 6-0. Quindi, diciamo, uno che ha visto queste cose qui, poi dopo due anni l'ho visto in televisione nella partita con perché a quel tempo lì c'era la partita in televisione, era rare perché ci sarà stato 5 televisioni in tutta Montevarchi, e io mi ricordo di averlo visto, che marcava il grande Di Stefano, e sinceramente in quella partita lì non è che Di Stefano riuscì a fare molte cose. Il nostro Pan Bianco gli fece veramente una bella guardia per tutta la partita. Un'altra persona che ci è stata molte volte ricordata dai nostri ospiti, appunto anche da una signora che è venuta ospite qua e che ci ha raccontato che proprio in quegli anni era usuale per lei e per la sua famiglia ospitare il Lupo Balleri in casa per le cene, per i pranzi, perché era diventato uno di famiglia, e così come ci ha raccontato succedeva anche a lei. Ma il Lupo Balleri allenatore, quindi il Lupo Balleri che la allenava, che la guidava in qualche modo, guidava lei come tutti gli altri suoi compagni di squadra, che persona era? Che tipo di carisma aveva e cosa riusciva a tramandarvi? Era una persona schietta, non loquace, però le parole erano dette al momento giusto e al punto giusto. Era un padre quando serviva, era anche tosto quando ce n'era bisogno. Per me era una persona, è stata una persona, è quello che mi ha voluto comprare a tutti i costi da Orvietana, che faceva lo stesso campionato del Montevarchi, e mi ha voluto a tutti i costi acquistare. Mi ha sempre consigliato, mi ha aiutato a fare gol, perché lui ancora giocava il primo anno, soprattutto quando io esordì a Montevarchi, e mi ricordo che quando si apprestava a calciare io sapevo dove me la metteva. Potevo partire in anticipo, arrivava lì il pallone. Nel finale degli anni 60 lei a Montevarchi c'era come calciatore, poi ha girato per circa 10 anni l'Italia, in lungo e in largo questo sì, e poi è ritornato a Montevarchi. Come ha ritrovato Montevarchi 10 anni dopo, al di là del fatto che poi ci si è sposato e ci ha costruito una famiglia, però i Montevarchini la riconoscevano, la fermavano per la strada, erano ancora legati all'ex calciatore, oppure erano magari una situazione un pochino più fredda, e comunque la città in generale era cambiata o stava cambiando? Non ho trovato molta differenza, lei non ci vedrà. Mi accorgo che mi vogliono bene, mi volevano bene, insomma, adesso logicamente sono passati troppi anni, per cui i ragazzi che vanno allo stadio adesso non è che mi conoscono, però per 10-15 anni mi riconoscevano, mi chiamavano, mi salutavano, mi invitavano a ricordare di quello che si era fatto, di che magari che avevo fatto a Montevarchi, e logicamente mi faceva piacere. Sei tornato a Montevarchi nel 1984, eri parte della squadra che ha vinto la Coppa Italia a Chioggia, che è un momento piuttosto storico, sia da un punto di vista di obiettivo raggiunto per la storia societaria dell'Aquila, sia anche da un punto di vista di partecipazione dei tifosi, perché comunque è una cosa ricordata e rimembrata ancora oggi come uno dei momenti apice della storia di Montevarchi. Raccontaci un po' le emozioni tue in quella partita e come tu hai vissuto da calciatore quello che ti succedeva intorno, insomma la partecipazione cittadina sia durante la partita che dopo. Parlando di quando ritornai a Montevarchi, i dirigenti del Montevarchi, allora un certo Farolfi, un certo Losi, Renatino, il segretario storico del Montevarchi Calcio, che avevano fatto il modo di farmi ritornare a Montevarchi dicendomi che noi vogliamo rivincere il campionato per ritornare in C. E sinceramente il primo anno facemmo un grandissimo campionato, però arrivammo secondi e vinse la Massesi, però facemmo un grandissimo campionato. Il secondo anno la società si organizzò bene, avevamo una gran bella squadra, fortissima, fatta di tanti bravi giocatori e bravi ragazzi. Il secondo anno fu l'anno, diciamo, che vincemmo tutto. Fu una battaglia, il campionato fu un campionato duro, difficile, contro Poggi Bonzi, che ci impegnò fino all'ultima giornata del campionato. Fu una lotta fra noi e il Poggi Bonzi. Noi forse partimmo i primi due o tre mesi furono non al meglio, però poi trovammo la strada giusta. Il Poggi Bonzi fu un avversario tosto che mollarono solo all'ultima giornata. Nel frattempo c'era la Coppa Italia di mezzo e noi partimmo anche lì. Il primo scontro fu con il Poggi Bonzi. La prima eliminatoria di tutta la Coppa Italia fu con il Poggi Bonzi. E mi ricordo che a Montevarchi facemmo 0-0. Quindi il ritorno l'avevamo a Poggi Bonzi, insomma subimmo un gol, prendemmo un gol, non mi ricordo, nell'inizio del secondo tempo. Era una partita difficilissima, loro una grossa squadra, insomma era il 42esimo, perdevamo 1-0 e mi ricordo che l'allenatore, allora Caroni, sostituì un giocatore e mise Tiziano Casucci. Entrò in campo dopo due minuti, non so quanto verranno passati, insomma ci fu un'azione, lui intervenne su un pallone veramente, fece il gol dell'1-1. Al 42esimo eravamo quasi eliminati e invece superammo il turno noi, perché avevamo fatto 0-0 in casa e 1-1 là, quindi superammo. E da lì fu una cavalcata in un anno. Siamo stati a giocare dalla Sardegna, la Calabria, su in Piemonte, Lombardia, abbiamo girato tutta l'Italia, le varie squadre che abbiamo incontrato, è stato un altro campionato. Poi la finale di Chioggia, arrivammo alla finale di Chioggia dopo aver battuto il Battipaglia in semifinale. Anche a Chioggia fu una partita molto difficile, nonostante tutto fu un'annata e dovemmo lottare perché trovavamo sempre degli avversari tosti. Si perdeva 1-0, poi Nicolai pareggiò nel secondo tempo, la partita non ci riuscì a vincere, avevamo diverse occasioni da gol, insomma non si riuscì a buttarla dentro, la partita andò a finire anche ai supplementari e poi ai rigori avevamo un porto a un certo Romeo Giacinti,

e ancor prima che fosse allenatore del Montevarchi, Lupo Valleri ne era stato anche calciatore. E proprio negli anni in cui era calciatore per il Montevarchi, Lupo Valleri ha stretto una forte legame di amicizia con la vostra famiglia. Sì. Ci racconti un po' come è cominciato questo legame di amicizia? È cominciato così, che lui e Marcello, insomma mio marito, lo invitava, vieni. E lui gli piaceva il mangiare che faceva la mia suocera. E la mia suocera gli diceva, quando devo venire, vieni. È stato una volta, è stato due volte. Poi ha fatto parte della famiglia, capito lui? Si portava Simone, era piccolo, se lo portava dietro alle trasferte. E qual era il piatto preferito di Lupo Valleri che cucinava tua suocera? Lui il lunedì, ti posto di questo, portava il pesce, no, il martedì mattina portava il pesce e lo cucinava lui, capito? La mia suocera faceva il coniglio, faceva... Vabbè, quindi il coniglio, diciamo, che era il piatto preferito di Lupo Valleri. Sì, sì, ma i Valleri era una buona forchetta, era proprio una buona forchetta. E quando Valleri era al vostro convivio, al vostro tavolo, sì, a pranzo, sì, da sì, voi, sì, parlava del Montevarchi, del calcio, dei giocatori, oppure no, era tabù? È sempre stato segreto. È sempre stato segreto? E la mia suocera ne diceva, Costanzo, se tu vedi, la mia suocera è il calcio, figuriamoci, non lo seguiva, perché guardava, ascoltava i risultati per poi raccontarli della serie a ragazzi. E gli diceva, Costanzo, ricordati, se tu vedi qualcosa che non va, prima che ti mandano via, glielo diceva la mia suocera, va via da te. Mi dovete concedere di ringraziare tutti, ma veramente tutti, dal primo all'ultimo, da quelli che ancora ci sono oggi, da chi si è un po' distaccato, da chi magari l'ha vissuta in parte, da chi la vive ancora totalmente oggi, tutti coloro che si sono resi partecipi di tutti i nostri memorial negli ultimi, partiamo dai primo, 17 anni, ecco. La curva è grata a tutti coloro che hanno spesso anche solo un'ora, una mezza giornata per far sì che tutte le cose che noi abbiamo ideato, realizzato, si portassero a compimento. Ecco, questo è una cosa che si deve veramente a tutte le persone che sono state protagoniste di una bellissima storia che è il Memorial, che comunque è un aspetto fondamentale di quella che è la vita della curva e che spero sia anche il futuro della curva, ecco. Dall'estate prossima spero si possa organizzare iniziative e ci saranno storie sempre più belle magari a raccontare in futuro prossimo. Tra l'altro è bene anche ricordare che il nostro regista presente stasera, signor Ron Howard, è un professionista invece della camminata, tant'è che è stato con Tiziano Casucci protagonista di 30 e passa chilometri come fioretto per la vittoria del campionato che era appena conclusosi, che tra l'altro è stata ricordata proprio in occasione dell'ospitata di Tiziano Casucci qui. Comunque, a parte questo piccolo inframezzo, era bene ricordare, a mio avviso, Gian Maria, io concludendo, anzitutto sento la necessità di ringraziarti perché comunque hai esplicato in maniera perfetta quello che significa essere ultras a Montevarchi, disegnando e facendoci vedere letteralmente la tua passione e la passione che hai vissuto in questi anni, che dal mio punto di vista è splendido. Credo che le persone che ascolteranno saranno state ben interessate, probabilmente quelli che non conoscevano la realtà ultras montevarchina avranno gli occhi ben aperti adesso dopo averti ascoltato. Vince chi segna, e quindi è giusto dal mio punto di vista che sia ricordato anche questo aspetto del gioco. In quegli anni lì, specialmente la vittoria a Genova, eravamo ancora un po' provincialotti, Montevarchi si affacciava per le prime volte nei palcoscenici un po' più importanti della sci, per le prime volte veniva conosciuto, per cui fra noi, anche noi giocatori, a volte scherzavamo, no? Quando siamo scesi in campo a Marassi, il capitano Pelini aveva scelto la curva dei genovani e noi dicevamo, guarda, ti sei sbagliato, non sono montevarchini quelli, perché erano rosso-blu come noi, no? Quindi per dire quanto ancora eravamo così un po' alla buona, insomma, avevamo poca esperienza di questi palcoscenici. Quindi si scherzava nello spogliatoio anche in campo proprio per superare magari un momento di tensione molto forte, perché io mi immagino, questo magari me lo confermerai, io mi immagino persone che vengono da un paese che per la prima volta si affacciano a giocare in un calcio un po' più importante, alla fine giocare sì contro il Genoa, che è vero era un po' una nobile decaduta, 9 scudetti già vinti nella massima serie in Italia, quindi mi immagino l'emozione che si prova ad uscire dagli spogliatoi, dal tunnel, e si entra in campo e invece di esserci, che ne so, il campetto o comunque il campo medio, di media importanza, che magari una persona è abituata a vedere, e invece si ritrova a Marassi, dentro lo stadio di una città. Ancora oggi ci sono tifosi sandoriani che ci ringraziano, che ci spediscono lettere a Montevarchi ringraziandoci per quel gol. Devo dire che per i tempi quella lì è stata veramente, fu una vittoria che fu epocale, insomma, ecco. Io devo dire che negli anni successivi, lavorando per il Genoa Osservatore, mi capitava spesso di andare lì a Pegli, al campo d'allenamento, e incontrare a volte Maselli, Turone, i protagonisti di quel momento, di quella partita. E loro dicevano: il nostro unico neo è aver perso in casa con il Montevarchi. Cioè, ma non se lo spiegavano, perché per loro, diciamo la verità, fu una sconfitta in gran parte meritata, insomma, non è che avevamo fatto di tutto per vincerla. Poi il calcio a volte è strano, finisce per consegnare delle situazioni che sono inaspettate, però per loro è rimasta una macchia. Devo dire che quando c'è stato, hanno festeggiato i 100 anni di storia del Genoa, mi ha telefonato un giornalista del secolo XIX, ho avuto tutta un'intervista su questa vittoria, ed è vero che chi va a volte a Genova e capita in qualche ristorante gestito o da genoani o da sandoriani, gli dicono: ah, di Montevarchi, ma ci hai fatto il favore una volta, così, oppure dicono: madonna, è stata la nostra Caporetto, e sono disperati. È rimasta, ora ormai sono passati tanti anni, però insomma. Che poi, riallacciandoci al ruolo aggregativo che ci dicevi poc'anzi, la Curva Sud ha assunto negli anni anche all'interno della parte giovanile della società montevarchina, una parte importante è anche fuori dai mesi relativi al campionato, perché comunque avete organizzato, sono stati organizzati memorial anche in memoria per l'appunto di amici scomparsi, con frequentazione e partecipazione anche dei numerosi amici e gemellaggi che la Curva ha portato avanti negli anni nel mondo ultras, giusto? Domenica prossima infatti faremo un nuovo memorial per i nostri amici scomparsi a Moncioni, un pranzo, saremo 150 persone a mangiare, ci saranno presenti gli amici di Perugia, gli empolesi, ossì negli ultimi anni, logicamente vivendo la Curva, ci sono anche degli intoppi in mezzo alla Curva e abbiamo perso delle persone in cui secondo noi anche è doveroso ricordarli, Pispolo, Raffa, Paolo, Fiossi, che erano dei tifosi che per noi erano un pezzo della nostra curva, e era doveroso ricordarli. Infatti ancora continuiamo con sforzi, perché come dici te, durante l'anno non è facile sempre tutte le domeniche, ossì chi ha famiglia anche come me e tante persone, arrivare d'estate e trovarsi a organizzare altre cose. Insomma, è impegnativo, ricordiamoci poi che siamo sempre una cittadina di 25.000 abitanti, non siamo una città che è più grossa di noi, diciamo che noi, a differenza di altri, siamo più umili, diciamo, di queste cose, e lo facciamo per passione, non per boria, capito? Noi siamo lo facciamo per passione, e anche il ricordo delle persone, degli amici che sono scomparsi, per noi è una cosa basilare. E domenica prossima infatti faremo questo pranzo a Moncioni. L'anno passato abbiamo fatto le camminate, è stato cambiato mille modi per ricordarlo di loro, e siamo orgogliosi di questo. Che a me personalmente mi preme anche dirlo, soprattutto agli ascoltatori che magari ancora non sanno bene decifrare il mondo ultras, che spesso viene raccontato come il mondo dei debosciati, violenti, casinisti. Uno dei concetti principali è appunto quello di onorare anche la memoria del gruppo, la memoria degli amici scomparsi, e qui a Montevarchi è una cosa che è andata avanti, è sempre successa e che è doveroso sottolineare, perché è un impegno importante e soprattutto è anche dimostrazione di quello che dicevi precedentemente, che attraverso poi il gruppo ultra si crea una seconda famiglia che va ben oltre anche la partita. E fare beneficenza, perché negli ultimi anni abbiamo fatto tanta beneficenza in Chiapas, in Africa, abbiamo mandato tanti soldi. Non è che l'ultra si è catalogato con quella persona, è disgraziato, fa casino. Invece si torna sempre solo al discorso di prima, è facile dare un'etichetta. Guardiamo sotto l'etichetta che c'è, guardiamo per bene. Ci racconti la tua scaramanzia principale da allenatore? Qual è il tuo rito per portare bene alla squadra? Oddio, dovrebbero parlare i giocatori, perché ce ne ho talmente tanti che forse tutti non me li ricordo. Sicuramente uno un po' particolare è che io metto la musica dentro lo spogliatoio e tutta una serie di canzoni scelte chiaramente da me, di vario genere, però ce n'è un paio che sono di Renato Zero, che chiaramente sono un ex Sorcino, va bene? Tra l'altro vi posso dire che dove abitavo io e la sua mamma abitava a 500 metri da casa mia, e noi spesso dovevamo passare sotto casa, lui con il macchinone, noi la cerchiamo tutti quanti, a chiedere dove, per spinta. Quindi con Renato ho avuto un rapporto fino dai 15 anni, 14 anni, quando già cominciava a essere famoso. E poi tra l'altro ho saputo anche poi che insomma la carriera l'ha sviluppata qui nel Valdarno, lui. L'ho visto anche qui due volte, a San Giovanni, a Gucci, so che qui al Mulino mi sembra c'era la discoteca, che lui ha cominciato. Quindi mi sono ritrovato con questa cosa qui. E dicevo, appunto, metto un paio di canzoni di Renato Zero, di cui l'ultima, poi io la canto, e ultimamente Ambra la cantava anche Gregucci, perché anche lui è di Roma, anche lui è innamorato di Renato Zero. E dopo questa canzone entravamo tutti quanti in campo, cioè aspettavamo tutti quanti che finiva una certa fase con la canzone, dopodiché si poteva andare in campo e vincere le partite. E poi, se si rientrava in spogliatoio, se era vinto, come è successo a Ambra, se ne è vinte tante, c'era una canzone dei Village People, IMCA, e lì tutti quanti a cantare, a fare selfie, a fare cose. Questa è una delle ultime che ho fatto a Amra, ma ce ne sono tantissime, dalla mattina quando mi alzo, che metto giù il piede sinistro invece che il destro, dal letto, e tutta un'altra serie di cose che ci vorrebbe forse un'altra trasmissione per raccontare tutte quante. A voi calciatori, vi hanno dato degli insegnamenti particolari che non avevi mai trovato al di sotto della Serie B, oppure era più o meno tutto uguale, al di là dell'ambiente e tutto quanto? Senti, paradossalmente in squadre così, io ti dico, all'epoca noi ci allenavamo molto, molto veramente, e anche i tipi di allenamento erano molto duri. Paradossalmente in squadre così lavori un po' meno, lavori un po' più con la testa, e fai molto più tattica e è tutto molto meglio organizzato. Ecco la differenza tra una C, una B, una A, è l'organizzazione, è quello che gira intorno a una squadra. Poi il lavoro è sempre più o meno quello, se hai le qualità riesci a stare in determinati ambienti. Io ho visto giocatori che purtroppo non hanno avuto la possibilità di andare in Serie A o in Serie B, ma se l'avessero avuta probabilmente dopo uno o due anni sarebbero diventati dei fenomeni, perché tutto sta a entrare in un meccanismo che è diverso a livello dei giornalisti, a livello di interviste, a livello di campo, a livello fisico, perché paradossalmente si lavorava molto meno noi, si partecipava di più mentalmente, c'era l'insegnamento del vecchio giocatore, capo cannoniere, mi ricordo c'era un Checco Palmieri, capo cannoniere in Serie B con Lecce, che ti tramandava qualcosa. Vedi, come qualsiasi mestiere, anche il mestiere che faccio il barman, barista, quando lavori con delle persone più brave di te, devi portare rispetto, perché ti insegnano qualcosa. Cioè, tanti nascono fenomeni, non hanno bisogno di niente, magari poi dopo se non si aggiornano si fermano anche loro. Perché la vita è fatta di apprendimento, in tutto. Io gran parte degli errori del calcio li stavo ripetendo anche nella mia attività qui a Montevarchi, poi ho capito che mi dovevo dare una mossa, mi dovevo aggiornare, dovevo essere più preparato, e la vita penso sia fatta così, di lavoro, di andare in giro a vedere come lavorano gli altri, di capire tante cose se rimani fermo nel tuo posto non riesci a capire. Capito? Io per dire, questa settimana, domenica sono andato a fare un giro, ho visto altri locali, sono andato a vedere. È importante capire come lavorano anche le altre persone, come la pensano. E questo, vedi, anche oggi per dire, un paese soffre come Montevarchi, no? Soffre perché si è pensato anche troppo fuori, poco dentro di noi, capito? Non siamo andati a vedere come lavorano gli altri paesi, siamo stati troppo presuntuosi nel fare tante scelte, capito? E invece ci vuole sempre un pizzico di umiltà, fa sempre bene a tutti. Purtroppo alle volte la politica sbaglia, poi sbagliano le squadre di calcio, i team, insomma. Però è importante imparare. Ecco, lì in queste squadre, se ci arrivi da, che sei parte da squadre più piccoline, quando arrivi lì ti fermi e dici, quindi devo imparare qualcosa, ecco.